se avessi preso il pelo avvolto un pugno. Non c'è più luce, ma solo buio, che mi conduce una terra di gente che tace, incapace di scagliarsi contro il verme che ha lasciato le sue tracce. Io lo combatto, non gli do pace, della corsa un seguace. Ogni anno fottute facce che si confondono tra dire e fare, mercenari e soldati per rubare. Che cazzo rimane? Solo gente che scompare oltre il mio mare. Il motivo è sempre solo uno, qui non c'è futuro, qui niente è sicuro. Davanti a me è solo merda appiccicato a un muro. Legione puttane, paraculo, niente funziona. Il mio stesso vomito mi affoga in un'isola sola, con l'acqua alla gola e sul mio cranio una fottuta pistola. Ora, più di prima, sempre in lotta continua. Quando una storia si fa ambigua, tenendo alta la bandiera di chi mi stima. Ma la mia cima è sempre più lontana, quando intorno ci svolazzano i figli di puttana. Sulla mia strada c'è chi mi domanda se ho mai visto il fronte, e c'è chi oggi ha un posto sulla barca di Caronte. C'è uno come me che sfida la cattiva sorte, con i balordi a fianco che mi danno man forte. E a volte porto il panico a chi ha il pugnale dalla parte del manico. Ormai sono diventato cinico, sadico, perché sentenza è una strafottuta conseguenza di tutto quell'odio e quella sofferenza che ho accumulato nella mia esperienza di vita di merda. Porca puttana, sono sempre in guerra in questa strada data cazzo di terra, dove non mi faccio più scrupoli. Le cose inutili, i discorsi futili, gli lascio solo agli stupidi. Intanto passano gli anni e c'è sempre lo stronzetto di turno che mi causa dei danni, e non vedo altro che inganni anche da quelli che reputavo amici. Non capisco più quali sono i miei veri nemici, e il mio odio continua a scaturire imperterrito con chi con me è ancora in debito, con chi mi ha tradito, adesso inchina la testa e sta zitto. Questo è quello che rimane, sono gente che scrivare. Questo è quello che rimane, sono gente che scrivare. Questo è quello che rimane, sono gente che scrivare. Questo è quello che rimane, sono gente che scrivare. Sono un uomo sconfitto che vaga nelle zone deserte di questa prigione, con le spalle coperte e ubriaco di rancore. Aprite i cancelli, coglioncelli, e fate l'acqua ai balordi e all'opposta fazione. Questo è quello che rimane, sono gente che scrivare. Questo è quello che rimane, sono gente che scrivare. Questo è quello che rimane, sono gente che scrivare. Questo è quello che rimane, sono gente che scrivare. Questo è quello che rimane, questo è quello che rimane. Questo è quello che cazzo rimane. Questo è quello che cazzo rimane. Questo è quello che cazzo rimane. Questo è quello che cazzo rimane. Questo è quello che cazzo rimane. Questo è quello che cazzo rimane. Questo è quello che cazzo rimane. Questo è quello che cazzo rimane. Che cazzo rimane. Che cazzo rimane.